Mettile catene, stabilisci le tue pene. O abusi di una legge che non regge nell'insieme. La nazione in corruzione, Babilonia che la tiene. Il presidente vuole gente, la conquista con le scene. E cane contro cane, la giustizia è con l'infame. Però nel regno dei cieli vali solo se fai il bene. Quindi pagherai, anche se scapperai. Tanto tu lo sai che non puoi cambiare il genere. Cambia l'umore se pensi di aver capito. Qui non sarà mai rancore a fare muovere ogni dito. Non fare il predatore, il tuo signore non ha rito. Anch'io voglio l'amore ma non ne faccio un partito. Non credi che conviene a te che te ne viene. La giustizia sta alla pari tra compari come voi. Che ti appartieni in questo mondo neanche il pane. La giustizia qui divina già giudica pure i suoi. L'atto giusto è chiuso dentro i tuoi pensieri. E non lo fermano neanche i carabinieri. Qua la giustizia adesso sta nei desideri. Ma la giustizia vuole dire solo verità, dentro un mondo fondato sulla parità. Ma la giustizia è il bene dell'umanità, è giustizia divina. Ma la giustizia vuole dire solo verità, dentro un mondo fondato sulla parità. Ma la giustizia è il bene dell'umanità, è giustizia divina. They try to fool us and save the yes, but I'ma turn their theories into smoking ashes. I don't give a fuck, I say what I wanna say. They gotta lay their powers, it's getting worse day by day. Minutes and hours getting fucked by these cowards. Making laws for themselves, not for the people. Oh shit man, I thought we was equal. Well I guess I was wrong, that's the reason I wrote this song. To show inside our leaders are on the hunger for more money than what they have. Oh man, that's bad. Thinking of money when there's people that are sad. No democracy we got in a hidden supremacy. Racism and violence, while most of their politics clean their asses with green paper. I ain't cool with that, now I'm done, I'ma catch y'all later. Peace. Revolutionary. Ma la giustizia vuole dire solo verità, dentro un mondo fondato sulla parità. Ma la giustizia è il bene dell'umanità, è giustizia divina. Ma la giustizia vuole dire solo verità, dentro un mondo fondato sulla parità. Ma la giustizia è il bene dell'umanità, è giustizia divina. Mister Presidente, tu lo sai che se ne vuoi già non dimenticherà tutti i tuoi reati. Mister Presidente, quanti leggi cambierai, tanto tu non la farai franca i tuoi peccati. Certo lo so che la giustizia non è Alfano, certo lo so che non è neanche Provenzano. Quindi potrò discernere il bene dal male. Giustizia verbale vale contro l'uomo insano. Ma la giustizia vuole dire solo verità, dentro un mondo fondato sulla parità. Ma la giustizia è il bene dell'umanità, è giustizia divina. Ma la giustizia vuole dire solo verità, dentro un mondo fondato sulla parità. Ma la giustizia è il bene dell'umanità, è giustizia divina. Revolutionary. Dedicate my life. Peace.